Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Come anche vi ricordavano i nostri GR, l'incontro si entra nei contenuti più forti tra governo e parti sociali, ossia tra governo, sindacati, Confindustria, e sul tema e sul tappeto c'è la riforma del mercato del lavoro. Anche lì dichiarazioni abbastanza interlocutorie, però ieri Mario Monti, lo ascolteremo, si era espresso in maniera abbastanza netta, con molte reazioni sul posto fisso, sull'articolo 18 tornata dal presidente di Confindustria Marcegaglia dicendo che non è un tabù. Il ministro Fornero in una nota ha chiarito che il dialogo è stato costruttivo. Quello che è certo è che il governo intende varare questa riforma, e all'inizio, durante l'incontro, erano uscite anche alcune indiscrezioni secondo le quali il ministro avrebbe dichiarato che il governo farà la riforma in ogni caso, anche senza un accordo complessivo. Queste dichiarazioni, queste indiscrezioni non sono state confermate dopo, quindi le trattiamo come tali. Seconda vicenda è l'invio per Alessandro Profumo, l'ex numero uno del gruppo Unicredit. La vicenda Brontos, ossia l'accusa è che un paio di banche, nel caso specifico Barclays Capital, avrebbe con oggetto Unicredit Intesa, avrebbe organizzato per queste due banche italiane operazioni per 3 miliardi e mezzo di euro complessivamente, che avrebbero generato 75 milioni di utili grazie a un sistema sostanzialmente che permetteva di eludere le tasse. Intesa nega di aver aderito, Unicredit sostiene di aver operato con modalità diverse da quelle proposte dagli inglesi. Il 16 marzo scorso uscì la notizia sul quotidiano britannico Guardian, e appunto il procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo ha chiesto rinvio a giudizio per Alessandro Profumo e altre 19 persone. A questo punto l'ammontare della maxi frode fiscale dovrebbe essere di 245 milioni di euro. Ancora il mercato come va? Più 0,33% sia Milano che Parigi, più 0,70% Francoforte, più 0,32% Londra, euro a quota 1,3175, va tutto sommato bene, visto l'andamento di ieri, e va benissimo Mediaset, più 8,4%, poi Monte dei Paschi, più 8,20%, Parmalat, più 7,70%, Banco Popolare, più 6,33%, Popolare Milano, più 5,30%, Mediobanca, più 3,60%. Il miglior titolo però, ovviamente, o meglio, tra i migliori titoli, c'è anche Benetton, perché dopo l'annuncio di ieri su come si sarebbe comportata la Ventura Investimenti per raccogliere, delistare il titolo, vuol dire raccogliere le azioni che sono ancora in circolazione e poi levare il titolo dalla borsa. E siccome il premio per consegnare le azioni è del 15%, il titolo è salito oggi del 15,95%. Molto forte Fondiaria Sai, più 15% quasi, e Investimento e Sviluppo più 17%, a Lazio più 13%, in negativo Stefanè meno 3,60%, e Italy One Investment meno 22,90%. Tra i titoli maggiori invece negativa Enel meno 1,50%. Dovrebbe arrivare forse durante la diretta di Focus Economia l'annuncio della nuova obbligazione Enel. Ansaldo CTS meno 1,5%, Telecom meno 1,30% come ST Microelectronics, Autogrill meno 1,20%, Luxottica meno 1%, Terna meno 0,80%. L'ultimo numero prima delle notizie in breve è quello per i vostri sms, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Non ho dato l'America, avete ragione, è invariato il Dow Jones in questo momento, 0,05% non è cosa. In calo il petrolio a $96,7 il barile, e gli utili del colosso petrolifero anglo-olandese Royal Dutch Shell sono calati nel quarto trimestre a 6,5 miliardi contro 6,80 miliardi nel quarto trimestre del 2010. Si andrà comunque a un aumento del dividendo pari a un centesimo per azione. Le prospettive sulla ripresa economica americana restano incerte, lo ha detto oggi il numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke. L'economia migliora, ci sono ancora rischi sui conti pubblici, ma soprattutto resta lunga la strada per tornare alla normalità nel mercato del lavoro. La crisi greca, secondo il commissario agli affari economici europei, Olli Rehn, a breve vi sarà un accordo con i creditori, però sempre secondo fonti europee servirebbero altri 15 miliardi alla Grecia. C'è una mancanza di 15 miliardi dopo l'accordo con i privati e il secondo piano aiuti. Bene invece l'asta dei titoli di Stato spagnoli, ha fatto il pieno. Madrid infatti ha venduto tutti i 4 miliardi e mezzo di bond e di obbligazioni, quindi bonus si chiamano, a 3, 4 e 5 anni. I tassi, il rendimento che la Spagna ha dovuto offrire per trovare sottoscrittori per questo suo debito è calato, e questa è la buona notizia, dal 3,45% al 2,80%. Però in Spagna la situazione sul fronte disoccupazione resta, lo dico per inciso, pesantissima. Pensate che oggi l'Istituto Nazionale di Statistica Spagnolo ha stimato che ogni giorno in Spagna vengono creati 9.000 nuovi disoccupati, 9.000 disoccupati al giorno. La Spagna ha record di disoccupazione a livello europeo perché ha il 22,85% di disoccupati. Ma torniamo alle notizie sul debito. Anche grazie all'asta spagnola è continuato a scendere il nostro spread, ossia la differenza tra quanto costa noi indebitarci e quanto non costi alla Germania, il paese più virtuoso. Siamo scesi sotto i 380 punti, a 378 punti. Il BTP a 10 anni cala del 5, come rendimento cala il 5,6%. Io ripeto, finché non sarà 250 giù di lì non saremo contenti, però 380, anzi sotto i 380, 378 punti iniziano a essere, speriamo che si mantenga, un segnale importante sulla maggiore così tranquillità nei confronti del debito italiano. Avete letto, immagino, su Sole 24 Ore che molti operatori americani si stanno riaffacciando sul mercato del debito italiano, statunitensi ma non solo, a vendere. Da giugno in poi furono anche i fondi pensione giapponesi e canadesi. Ebbene, sembra che stiano ricomprando bot, magari vendendo invece l'equivalente francese. Il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, in audizione al Senato oggi ha detto che dalle necessità che potrebbero avere alcune banche di nuovi aumenti di capitale potrebbe risultare una difficoltà per i titoli di Stato, ossia se c'è tutta questa richiesta di risorse in uno stretto spazio di tempo, quando un soggetto, anche una banca, fa un aumento di capitale, chiede soldi al mercato, chiede soldi agli azionisti, chiede soldi al mercato. Ebbene, dice Vegas, attenzione, questo potrebbe creare un problema per reperire, per di liquidità sulle nostre obbligazioni. Due dati ancora e poi apriamo con il primo tema, anzi ci sono anche due o tre notizie carine su cos'è questa crisi. Il primo riguarda invece le donne, perché oggi l'Istat ha presentato, in occasione degli stati generali sul lavoro delle donne in Italia organizzati dal CNEL, alcuni dati a mio avviso abbastanza sconfortanti. Le giovani occupate nei primi 9 mesi del 2011 sono scese di 45.000 unità, come si dice in gergo. Quindi, a fronte di un modesto recupero generale del mercato del lavoro, per le giovani, cioè essere giovani, essere donna, purtroppo in questo paese significa sommare due debolezze. Dicevo, per le giovani il calo è stato di 45.000 unità. E poi un dato: tra le madri il 30% interrompe il lavoro per motivi familiari, solo il 3% dei padri fa la stessa cosa. Ancora, alla base della bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro c'è la famiglia. Il 41% delle ex lavoratrici dichiara di aver interrotto l'attività lavorativa per prendersi cura dei figli, oppure c'è un altro 6% per persone non autosufficienti. E nel frattempo, mentre le donne giovani vedono ridursi di 45 mila unità al loro posto, la loro occupazione, e beh, invece c'è un mondo che è un mondo, mi dispiace dirlo, non c'è populismo, ma sideralmente distante dalla realtà di tutti i giorni, è il mondo della politica. Diremo qualcosa anche su Monti, su questa cosa, monotonia del posto unico. Io resto sempre perplesso perché queste frasi vanno anche interpretate, attenzione, ci permettiamo di dire attenzione al Presidente del Consiglio, già Padoa-Schioppa scivolò sui bamboccioni, per dire una cosa giusta venne fuori un insulto. Monotono il posto fisso, dipende qual è il tuo posto fisso, sicuramente in catena di montaggio è molto monotono. Vabbè, la crisi per la politica. Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. In molti ci avete scritto su quel taglio annunciato dello stipendio dei parlamentari. Avete ragione, ed è, diciamo, per guardare la bottiglia mezza piena, il bicchiere mezzo pieno, meno male che almeno non si sono fatti l'aumento. Ma in realtà non è un taglio vero e proprio. Perché? Perché lo stipendio dei parlamentari resterà di 11.000 euro netti al mese, compresa la diaria e i contributi per la segreteria e le iniziative politiche. Quello che è stato congelato, quindi non è un taglio vero e proprio, è l'aumento. E qualunque lavoratore sa che c'è una bella differenza tra avere ridotto lo stipendio o avere congelato l'aumento, lo dico così. Perché i 1.300 euro lordi al mese erano sostanzialmente quello che gli onorevoli avrebbero incassato nella busta paga di febbraio con il passaggio dal regime pensionistico retributivo a quello contributivo. Questo è ciò che l'ufficio di presidenza di Montecitorio e poi anche del Senato hanno congelato, 1.300 euro. Però attenzione, non è mica finita, perché ci sono 26 ricorsi presentati, lo si è saputo oggi, alla Camera contro i tagli ai vitalizi dei parlamentari. Allora, chi è che non vuole rinunciare a questi 1.300 euro lordi di aumento? Dunque, i leghisti, i 15 su 26 ricorsi vengono dal partito di Bossi, 7 dal PDL, inclusi gli ex di Forza Italia e ex DN, 3 dall'Ulivo, 1 dal Partito di Rifondazione Comunista. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? E poi la polemica sui privilegi degli ex presidenti della Camera e del Senato. Perché uno dice, ma perché tutta questa attenzione? E per un piccolo particolare, hanno diritto gli ex presidenti di Camera e Senato a un ufficio e 4 persone di segreteria al termine del loro mandato, a vita, qualunque cosa uno faccia dopo, vale per Irene Pivetti, l'avete vista intervistata, come per qualunque altro ex presidente della Camera. Oltre al diritto di un alloggio, a chi non è assegnata una scorta è garantita un'auto blu, così come un forfè telefonico di 150 euro al mese e un carnet di viaggi a disposizione come tutti gli ex parlamentari. Non si capisce perché. Irene Pivetti, per esempio, ha 2 stanze a Palazzo Marini, un addetto di segreteria. Fausto Bertinotti ha praticamente 5 stanze a Palazzo Teodoro Bianchelli e 5 addetti della Camera. 5 addetti della Camera per Fausto Bertinotti. Luciano Violante, ex presidente della Camera anche lui, 3 stanze, un'anticamera, un ufficio con terrazzo a Montecitorio, 4 persone nella segreteria, Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera dei Deputati, 3 stanze con terrazzo panoramico a Montecitorio, 4 addetti all'ufficio. E poi anche Carlo Scognamiglio, Nicola Mancino, Marcello Pera, Franco Marini, ex presidente del Senato, dispongono di anticamera, ufficio, stanza della segreteria a Palazzo Giustiniani. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Nel frattempo però veniamo anche a scoprire, e di nuovo devo ringraziare il collega Sergio Rizzo, nostro ospite alcune volte, che la metropolitana di Roma, Roma che travolta anche oggi da episodi di violenza, è la più costosa d'Europa. È oltre 5 miliardi per un cantiere iniziato nel 90, la linea C. In realtà si è partiti solo nel 2001. Pensate che la nuova linea del metro di Madrid l'hanno costruita in 36 mesi. Poi uno si chiede perché lo spread spagnolo sia più basso di quello italiano. E comunque l'opera pubblica più costosa e più lenta d'Europa, forse anche al mondo. Pensate che all'inizio doveva costare 1 miliardo e 925 milioni, adesso siamo a 3 miliardi e mezzo. Poi ci sono 485 milioni di maggiori esborsi per 4 arbitrati già aperti, 100 milioni stanziati dal CIPE, 1 miliardo e 100 milioni per opere complementari, totale 5 miliardi e 72 milioni, il 163% in più rispetto alla stima iniziale. Ma la cosa bella è che la metropolitana non esiste ancora. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Una buona notizia ce l'abbiamo però. Bravo il comune di Milano. Bravo Basilio Rizzo. Perché? Perché si era rotto l'orologio. Sapete che vi abbiamo letto una volta anche quanto costa riparare, quanto spende la Camera, il Senato, il Quirinale per riparare gli orologi, decine di migliaia di euro l'anno. Si era rotto l'orologio appeso sul muro del presidente del Consiglio, dell'allora presidente del Consiglio Comunale Massimo De Carolis. Praticamente doveva essere riparato. Preventivo per le riparazioni 600 euro. A che cosa ha fatto Basilio Rizzo? È andato all'IKEA e l'ha comprato lì. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, vi ricordate la vicenda dell'EMPAP, ossia quell'ente che ha comprato dal senatore del PDL Riccardo Conti? Allora, Riccardo Conti è riuscito in un'impresa che secondo me neanche Warren Buffett o George Soros, Gordon Gekko, dei tempi migliori, cioè ha guadagnato 18 milioni di euro in un giorno comprando e vendendo nella stessa giornata un immobile a Roma, cioè oggi su tutti i giornali ve l'abbiamo raccontata anche ieri. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine, modello 45, senza indagati, vuol dire senza indagati, basato sulle notizie di stampa. I reati ipotizzabili sono truffa, appropriazione indebita, corruzione, finanziamento illecito a un singolo parlamentare. Praticamente da Massimo Caputi, quello della Fimit, quello che dimenticò 45.000 euro in un hotel a Milano, in via Cusani, non si capiva cosa servissero, vabbè. Massimo Caputi, tornano le volte, Sviluppo Italia, quel carrozzone, più volte lo chiamammo, perché non ci parla di Sviluppo Italia, a cosa è servito Sviluppo Italia, boh. Però lui ha venduto per 26 milioni di euro e mezzo un palazzo di 3.900 metri quadri, tutto legale, tutto corretto, ci mancherebbe, via della Stamperia 64 a Roma, l'ha venduto al senatore del PDL Riccardo Conti, il quale poco dopo l'ha rivenduto all'ente di assistenza per gli psicologi EMPAP, che l'ha pagato 44 milioni e mezzo, plusvalenza 18 milioni in un giorno. Voglio dire, il fiuto per gli affari così, uno non deve fare il senatore, deve fare proprio l'immobiliarista spinto. L'EMPAP però, che è l'ente nazionale di previdenza e assistenza per psicologi, già si era messo in evidenza per avere creato un buco ai suoi associati, cioè ai 16.000 psicologi che versano i contributi per avere poi la pensione, per aver investito in Lehman Brothers. Allora, prima Lehman Brothers, poi un palazzo che paghi 18 milioni di euro in più in un giorno, forse un po' di seduta psicanalitica anche all'Ente Nazionale di Previdenza per i Psicologi non farebbe male. Che cos'è? Dov'è che non arrivi? Quale transfer hai quando fai gli investimenti? Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Happy world, eh sì, un mondo felice, no? La monotonia di Monti vi ha eccitato, vedo tantissimi messaggi al 349-238-6666 su questo. Vabbè, volete sapere cosa ha detto Monti sul posto fisso, che è monotono? Io ribadisco quello che ho detto prima, cioè ci sono concetti importanti, anche giusti, penso a Padoa-Schioppa sui bamboccioni. Penso anche a Michel Martone sul concetto di chi si laurea tardi senza motivo come sfigato. Concetto giusto, sbagliato chi lo dice. Concetto giusto quello di Padoa-Schioppa, sbagliato il modo, perché molti restano a casa perché guadagnano 800 euro al mese, quindi un po' più di attenzione. Secondo me anche Monti un po' è scivolato su questo. Un conto è dire ai giovani si abituino che non c'è il posto fisso a vita, a differenza dei loro padri e dei loro nonni. È un conto dire che il posto fisso è monotono. Scrive un ascoltatore una cosa bellissima, vediamo se riesco a ribeccarla. Monotona, adesso la ribecco perché stanno arrivando centinaia di messaggi. Era bellissima, perché monotonia paragonava anche la monotonia di avere sempre la stessa moglie. Intanto sentiamo Monti ieri a Matrix su questo. I giovani devono abituarsi all'idea che non avranno un posto fisso per tutta la vita. Del resto, diciamo la verità, che monotonia un posto fisso per tutta la vita. È più bello cambiare, avere delle sfide, purché siano in condizioni accettabili. E questo vuol dire che bisogna tutelare un po' meno chi oggi è ipertutelato, tutelare un po' di più chi oggi è quasi schiavo nel mercato del lavoro o proprio non riesce a entrarci. Nella riforma sulla quale il ministro del lavoro Fornero e tutto il governo adesso è impegnato, nella riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, la finalità è, direi che la finalità principale è quella proprio di ridurre la terribile apartheid, chiamiamo le cose col loro nome, che esiste nel mercato del lavoro tra chi per caso è già dentro, per caso o per età è già dentro, e chi giovane fa una terribile fatica a entrare, o se entra, entra in condizione precaria. Noi vogliamo ridurre il divario tra questi due tipi di tutela. Devo dire che sono d'accordo con Bersani, che oggi ha detto, insomma, il posto fisso diventa monotono quando uno ce l'ha, come il caviale, anche quello viene a noia, no? No, non scherziamo, cioè io sono d'accordo con tutto quello che ha detto il Presidente del Consiglio Monti nella seconda parte, cioè è chiaro che esistono, lo diciamo spesso, due Italie sul mondo del lavoro, adesso ne parleremo, quella dei felici, di quelli che hanno più di 40 anni, che sono entrati dentro il mondo del lavoro, hanno tutti i diritti, tutte le garanzie e si lamentano anche se gli innalzi l'età pensionabile, e quelli che non sanno manco cosa sarà la loro pensione perché non hanno ancora un lavoro a posto fisso o comunque dove possono versare i contributi, hanno lavori di carattere interinale. E ha ragione l'ascoltatore che dice, sì, ma quando mio figlio precario dovrà andare in banca e chiedere un mutuo, chi glielo garantisce? Monti il mutuo? Perché cambiamo tutto, ma cambiamo anche la testa delle banche quando devono erogare un mutuo, sennò tocca sempre che vada il papà col posto fisso, monotono, monotonissimo, a accendere un monotonissimo mutuo. Perché al posto monotonissimo, fisso. Ancora il ministro Fornero, che giustamente non vuole essere chiamata la Fornero. Anche qui, oggi mi tocca attaccare il governo, non so perché, ma si raggruppano tutti in una giornata sola. Dice, la riforma delle pensioni varata dal governo Monti non si tocca, e questo è assolutamente positivo. E poi, sempre nell'incontro, avrebbe detto, non voglio sembrare arrogante, ma la mia riforma ha determinato la riduzione dello spread. Cosa devo dire? Ministro, se dice così, sembra arrogante per forza. Sappiamo tutti che l'intero pacchetto di misure di Monti è servito, sappiamo che sono calati gli spread anche dalla Spagna nel frattempo, che tutta la tensione, grazie forse anche alle misure di Mario Draghi, così, quei 460 miliardi messi a disposizione delle banche europee, forse anche quello ha contribuito, oltre alla riforma delle pensioni sua, no? Allora, professor Paolo Nofri, docente di economia politica all'Università di Bologna, presidente di Prometeia, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Adesso ragioniamo delle cose più articolate, cioè cosa si deve cambiare, perché ripeto, sono d'accordissimo su tutto quello che ha detto Monti nella seconda parte, e cioè che esistono, lui ha parlato di apartheid, parliamo anche di apartheid, esiste una società piena di diritti per gente come me e che è più grande di me, ed esiste una società con pochissimi diritti per chi è entrata nel lavoro più tardi. Ma una battuta sulla frase di Monti, me la vuole dare? Lei ha già detto tutto quello che c'è no, da dire. No, no, no, no, no. Sì, perché certamente può dire che è una battuta infelice, ma avendo la pazienza di ascoltare tutto il contesto si capisce anche che era detto in modo un po' provocatorio, per prendendosi una libertà che magari un mese fa non avrebbe avuto, avendo un mese fa magari minore dimestichezza con l'uditorio, con le conferenze stampa, con le interviste e così via. Non c'è dubbio, è una frase infelice, proprio ecco, per le considerazioni che anche gli ascoltatori le hanno inviato. Quando uno deve andare a chiedere un prestito a una banca, ovviamente l'assenza di un posto fisso diventa un problema, ma lo sarebbe di meno se la probabilità di perdere il posto di lavoro fosse distribuita in modo più uniforme tra tutti i lavoratori e quindi se fosse molto più bassa per tutti i lavoratori. Il problema delle banche e dei precari è che su di loro, o diciamo chi ha un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, è che su di loro si concentrano le probabilità di perdere il posto di lavoro. Allora, adesso ragioniamo poi sul tipo di riforma possibile e vi spiegherò anche perché il professor Onofri, oltre alla carica che ha, è uno che di questo, su questo è intervenuto molto. Il numero per i vostri messaggi è 349-238-6666 per i vostri sms, ne vedo di carinissimi. Non si preoccupi, il mutuo le banche non lo danno nemmeno a chi ha il posto fisso, avete ragione. C'è chi dice anche la moglie monotona sia sempre la stessa e va bene. E poi c'è chi dice, attenzione, il ragionamento di Monti non mi sembrava così sbagliato. Abbiamo detto che condividiamo tutto tranne quella battuta sulla monotonia, perché si presta poi a speculazioni della stampa cattiva e cinica. E poi c'è chi scrive, come mai oggi attacca il governo e come mai lei non vuole capire da anni che io non attacco il governo, difendo il governo, ma cerco di leggere le notizie che ho? Le rigiro la stessa domanda. Allora, di nuovo la frase di Monti che poi apre le danze a quello di cui stanno discutendo, hanno discusso oggi Confindustria, sindacati e governo, cioè il ragionamento per cui esiste un apartheid tra contratti, tutto precario quello per i giovani e tutto garantito quello per gli adulti. Adesso vado chiaramente in maniera un po' grossolana, ripeto, condivido il 95% di quello che ha detto Monti, tranne l'attacco, come si direbbe in gergo giornalistico, cioè dire che il lavoro di fisso, il posto fisso è monotono. Allora, quando poi dice i giovani si abituano all'idea di non avere un posto fisso, scrive un ascoltatore, devo dire che ha ragione. Dice, Monti si riferisce a tutti i giovani, quindi anche ai figli di imprenditori che diventano giovani imprenditori, restano imprenditori a vita, ai figli di architetti, ai figli dei medici, ai figli di avvocati, ai figli di notaggi. Questo è il problema, perché bisogna poi scardinare tutto. Allora, quello che dice Monti è corretto, a mio avviso, se veramente non fossimo in un paese con l'ascensore sociale bloccato, in cui i figli di sono monotonissimi imprenditori, architetti e quant'altro, medici e giornalisti, e i figli di nessuno invece sono pieni di periodi eccitanti perché passano da un posto di lavoro all'altro come Tarzan sulle liane. Sentiamo comunque la presidente di Confindustria Marcegaglia sul fatto che il posto fisso come tale ormai non esista più. Io penso che non è che il posto del lavoro sia monotono, però penso che nella situazione in cui siamo il posto fisso come tale non c'è più, quindi dobbiamo prendere atto di questo. Penso che il presidente Monti lo dicesse in una logica che soprattutto per un giovane fare più esperienze è utile, arricchisce, crea più professionalità, credo che lo dicesse in questo senso. Però ribadisco, il tema vero qui è davanti a una situazione che già da tempo vede, come dire, la impossibilità di avere un posto fisso per tutta la vita. Noi siamo tutti impegnati a fare in modo che se un lavoratore perde un posto di lavoro, nel più breve tempo possibile possa avere gli strumenti di supporto al reddito e le politiche attive di formazione per poter ritrovare un posto di lavoro. Siamo in un momento di crisi molto pesante qua, quindi il tema, la preoccupazione di tutti è quello che certamente serve più competitività alle imprese, perché se non c'è crescita, non c'è competitività, non si creeranno posti di lavoro. Quindi dobbiamo lavorare su questo, però dobbiamo anche avere gli strumenti per supportare veramente concretamente i lavoratori che rischiano di perdere un posto di lavoro. professor Onofri, resti con noi, le faccio ascoltare anche cosa ha dichiarato sempre sul tema del posto fisso, la frase di Monti, ma in generale come è cambiato il mercato del lavoro. L'altra donna di queste sono tre: Fornero, Marcegaglia e Camusso, quindi Susanna Camusso, segretario e leader della CGIL. In questo momento in Italia ci sarebbero tantissime persone che sarebbero felici di annoiarsi, e che ce n'è purtroppo moltissime che non si possono annoiare perché stanno disperatamente cercando un posto di lavoro. E quindi credo che bisognerebbe ragionare dei grandi problemi dell'occupazione con una grande attenzione al fatto che parliamo spesso della disperazione di tante migliaia di persone che già sono disoccupate o che temono la disoccupazione. E forse più che usare delle battute bisognerebbe provare ad indicare a loro qual è la strada che il Paese intende intraprendere per dargli una risposta. Allora, professor Onofri, quando l'ho introdotta, adesso posso svelare il mistero, lei è stato, adesso presidente di Nomis, ma è stato uno degli autori della prima riforma del mercato del lavoro, quella varata dal governo Prodi. E poi ci fu Treu, ci fu la riforma che arrivò dopo Treu, quella di Sacconi sulla falsariga. Era giusto flessibilizzare, secondo me sì, però adesso ci troviamo con la situazione che lei descriveva, no? Cioè, un mondo fatto di paria e un mondo fatto di casta alta. Allora, prima domanda: ha un senso toccare il mercato del lavoro adesso con la disoccupazione che è tornata ai massimi dal 2004? O non sarebbe il caso di farlo quando invece l'economia è in crescita? Beh, può avere un senso farlo ora se si prende il problema da tutti i diversi aspetti che comporta, perché è difficile. Quello che bisogna evitare è di adottare solo delle misure parziali per segmenti di problemi. Mi spiego. Si è parlato di contratto unico. Il contratto unico, ovvero comunque sia definito un contratto che prevede per tutti un'assunzione con un rapporto da lavoro dipendente, toglierebbe di mezzo il problema che i giovani che hanno rapporti non da lavoro dipendente, quindi partite IVA, rapporti di collaborazione progetto e così via, quando perdono il posto di lavoro non hanno una indennità di disoccupazione se non un piccolo contributo, una tantum. E quindi già questo aspetto ha una ricaduta sul problema degli ammortizzatori sociali. Vediamo un'altra questione. Siamo in una fase in cui il governo vorrebbe aprire le professioni, aprire certi segmenti di lavoro, certe attività di lavoro, e le chiama liberalizzazioni. Io le chiamerei riduzioni delle barriere all'entrata, ed è opportuno metterle in atto proprio in questo momento, perché così come ormai è noto, nel corso di quest'anno si perderanno quasi altri 200.000 posti di lavoro. Di conseguenza, se si apre la possibilità di svolgere attività diverse, certo non sarà l'avvocato o il futuro avvocato che perde il posto di lavoro, ma c'è anche quello, sì. Ma c'è una possibilità di circolazione della attività tra le diverse categorie che sarà più ampia se questa viene portata avanti fino in fondo. E nello stesso tempo non si può nemmeno, quando si configura una ipotesi di contratto unico, comunque da rapporto da lavoro dipendente, non si può nemmeno immaginare di tornare indietro dal punto di vista delle aziende dalla flessibilità che finora. Allora, ecco, io vorrei capire questo, però è più importante secondo lei lavorare sulla flessibilità in entrata, e cioè fare in modo che vengano tra virgolette regolarizzati i giovani, i nuovi lavoratori, anche per il principio che lei ricordava, professor Onofri, cioè che poi se c'è una crisi economica, chi è dipendente alla cassa integrazione straordinaria, chi è interinale precario ha niente, ha moltissima eccitazione e molto poco monotonia e noia. Però vorrei capire se per lei è più importante in questo momento concentrarsi sulla flessibilità in ingresso, quindi il tipo di contratto che poi a cui tu potrai ambire, o la flessibilità in uscita. L'articolo 18, Emma Marcegaglia oggi è tornata a dire, per esempio, non è un tabù, però vorrei capire dove concentrare gli sforzi in una riforma. Se mi dà la risposta dopo il traffico, 349-238-6666 per gli sms, poi parleremo anche di borsa, chiuso in variata, poco mossi oggi gli indici, molto forte Mediaset più 8,30 e molto forte anche Benetton più 17%. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sì, mi state inondando di sms, di battute e sarcasmo e provocazione sulla noia, sulla monotonia del posto fisso. Restiamo però anche sui contenuti. La frase è infelice, l'abbiamo già detto, a mio avviso. 1500 euro al mese, moglie disoccupata, due figli da far crescere, non mi annoio. Punto, per quello che è una frase infelice. Professor Onofri, più la parte iniziale, cioè dal modello Flexicurity, per esempio penso al modello di Boeri e Garibaldi, che dicono entrino nelle aziende tutti come precari, quindi con contratti molto flessibili, e poi man mano che stai in un'impresa vai a irrigidire in un posto di lavoro il tuo contratto, perché se un'azienda ti tiene per 2-3 anni è giusto che il contratto da precario diventi magari a tempo determinato e poi indeterminato. Oppure è più importante ragionare sull'uscita, sull'articolo 18 e quant'altro? Indubbiamente alle imprese interessa la flessibilità in uscita, poiché in entrata hanno capacità di selezionare e se per caso hanno errori nella selezione lo risolvono con i contratti flessibili attuali, che sono flessibili nell'uscita. Il punto è riuscire a distribuire questa flessibilità su tutti, in modo che ciascuno ne abbia una quota minore, un onere minore. Finora tutto il sistema della ristrutturazione delle attività sia industriali che dei servizi ha appoggiato sulle spalle dei giovani. Questo richiede da parte di tutti di condividere anche questo rischio, sapendo che il rischio nel momento in cui si distribuisce su tutti diventa più piccolo. E ovviamente questo in poche parole potrebbe voler dire ammorbidire la cogenza dell'articolo 18, lasciandola, come è stato suggerito anche in questi giorni, solamente per quelle forme di licenziamento che costituiscono un vero e proprio discrimine. Quindi lei dice, se fosse più flessibile, o cioè avesse più possibilità, insomma, il contratto in ingresso, verrebbe forse anche meno tutta questa rilevanza dell'articolo 18? Sì, sostanzialmente così. Se vi fosse una possibilità di utilizzare l'articolo 18 solamente per i casi veramente discriminatori, e quindi vi fossero più gradi di libertà di utilizzarlo in altri casi, le difficoltà per i giovani sarebbero minori. Nello stesso tempo si ridurrebbe il costo del lavoro, perché il costo del lavoro è fatto non solo del salario e contributi sociali, ma è fatto anche di tutti gli oneri accessori connessi al licenziamento, e la domanda di lavoro, quando ci sarà più attività in espansione, potrebbe crescere ulteriormente. Allora, secondo lei, a questo punto, per concludere, professor Onofri, che tipo di riforma dovrebbe fare il ministro Fornero? Nel senso, è ovvio che non puoi toccare i diritti acquisiti, cioè non puoi trasformare i contratti in a tempo indeterminato in contratti precari, ma per i nuovi? Certo. Per i nuovi dovrebbero avere certamente, come ho già detto, un rapporto da lavoro dipendente e avere una stabilizzazione progressiva in funzione del tempo, ma conservando sempre la possibilità di scindere il rapporto nel momento in cui effettivamente si trovino delle condizioni di natura economica non sopportabili dal punto di vista dell'azienda. Ma questo, se viene fatto in modo progressivo e se si tiene conto che il turnover complessivamente è del nell'ordine di 6, 7, 8 anni, nel giro di diciamo al massimo un decennio, arriveremo in una situazione in cui l'onere della flessibilità è distribuito sulle spalle di tutti e non solo delle coorti più giovani. Grazie, grazie al professor Paolonofri, che insegna economia politica a Bologna ed è vicepresidente di Prometeia, chiaramente non di Nomisma. Grazie ancora. Arrivederci. Le 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo della borsa, dopo aver raccontato anche su cosa sta lavorando il governo Monti, nel caso specifico il ministro Fornero, quanto riforma del mercato del lavoro. Non possiamo tornare di nuovo sulla monotonia con cui che Monti ha attribuito al lavoro fisso. La frase l'abbiamo fatta ascoltare, casomai la facciamo riascoltare, però il ragionamento di Monti, a mio avviso, è assolutamente condivisibile ed è anche, non è un'offesa dire monotono, mentre dire bamboccione, fannullone, quella sì, o dire sfigato, quelle sì sono offese. Non c'era nessuna offesa, semplicemente ci è sembrata una buccia di banana, un peccato veniale, non cose grosse, non altre frasi, diciamo. Però si può criticare anche molto ogni tanto, quando non ci convince sulla monotonia, in questo momento in cui la precarietà e la perdita di posti di lavoro colpisce soprattutto i giovani precari. A mio avviso si rischia di essere fraintesi. Mettiamola così, la borsa. Più 0,07%, 0,07 è più un film che un indice. Oggi Parigi più 0,27%, Francoforte più 0,60%, Londra invariata e l'America meno 0,1%. Euro a quota 1,31,61. Partiamo subito con Mediaset, che oggi ha fatto il botto più 8,30%. Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Sì, buonasera. Per quello che riguarda Mediaset non ci sono notizie ufficiali particolari per quello che riguarda il titolo. Oggi sono andate bene molte società di quelle che hanno un azionista unico forte e questo è uno dei casi, perché dopo quello che è successo con Benetton si scommette su un po' di delisting, ed era ad esempio una delle ragioni per cui è andata molto bene Parmalat per tutta la giornata. C'è anche il fatto che Mediaset è un titolo che spesso risente un pochettino degli umori politici, e oggi il governo Monti per la prima volta è andato sotto con un emendamento della Lega, e anche questo faceva notare che qualcuno degli operatori può aver avuto un suo impatto. Sì, non lo so, così forte fa quasi pensare che sotto ci sia dell'altro, però hai ragione tu, non esiste nessuna notizia ufficiale, non ci mettiamo a commentare ipotesi. E non l'abbiamo fatto nemmeno quando saliva molto Benetton, poi abbiamo scoperto che non era un'ipotesi ma era fuga di notizie quantomeno, o qualcuno che ha grandi doti di preveggenza come alcuni gormiti che riescono a leggere il futuro e sapeva che i Benetton avrebbero fatto il delisting, altrimenti nel mondo normale si chiama insider trading, ma non c'è nessuna accusa per questo. Monte dei Paschi è più 8%, Banco Popolare più 5,20%, Banca Popolare di Milano più 4,70%. Il Monte dei Paschi di nuovo viene premiato per la nuova smentita sull'aumento di capitale. Sì, nuova smentita sull'aumento di capitale. Oggi d'altra parte anche Vegas è intervenuto, il presidente della Consob, per dire che sì, questi aumenti di capitale vanno bene, ma in tempi più dilatati rispetto a quelli che pretenderebbe l'EBA, per cui sostanzialmente c'è anche un avallo, diciamo, dell'autorità di controllo rispetto a quello che vogliono fare diverse banche, che preferirebbero rinunciare in questa fase ad aumentare il capitale piuttosto a procedere ad altri tipi di rafforzamento di capitale come le dismissioni. Oggi MPS è comunque ha guadagnato l'8,01%, anche altre sì, banche l'effetto, popolari. L'effetto bond spagnoli c'è stato, la Spagna ha collocato 5,5 miliardi di debito, li ha collocati molto bene con rendimenti in calo, tant'è che anche il nostro spread per la prima volta è tornato da mesi, è tornato sotto i 380 punti, 378 punti. Mi arriva adesso una notizia e ve la leggo subito. Il rendimento dei BTP a 2 anni è sotto il 3% per la prima volta da giugno. Lo spread quindi scende in questo caso a 374 punti. Beh, giugno è un mese fondamentale, quando è iniziato l'attacco, o comunque l'attacco, chiamiamolo nel modo suo, al debito italiano oltre che spagnolo, e quando gli spread sono diventati linguaggio comune, e quando da 180-200 punti base siamo arrivati a 400 punti. Una scampanata, no, ma sì, una scampanata sul BTP sotto il 3% per la prima volta da giugno, 2,98% per la precisione. BTP a 10 anni è sceso al 5,60, leggo assieme a voi praticamente, lo spread si restringe a 364 punti, un galletto, una scampanata, quello che avete, dai. Scusa per l'interruzione, Guido, ma insomma sono sempre segnali, nulla di definitivo, ma i segnali positivi in questo caso si accumulano e continuano ad arrivarci. Benetton, come fa un titolo ad arrivare a un livello più alto dell'offerta pubblica? Cioè, i Benetton vogliono ritirare il titolo dal listino, ne abbiamo parlato molte volte, anche perché c'è odore vaghissimo di insider trading per quello che è successo nei due giorni precedenti, ma è un odore, non è mica la verità. Però il titolo ha già fatto più 17% e quindi è arrivato a un livello superiore all'offerta che farà la famiglia Benetton per ritirare il titolo, perché l'offerta ha un premio del 15%. Come mai? Perché il mercato scommette che questo prezzo possa o debba essere rivisto. E sostanzialmente questa è la ragione per cui oggi il titolo ha chiuso a 4,742 euro rispetto ai 4,6 euro offerti dalla famiglia per delistare la società. Bisognerà vedere un pochettino, adesso oggi sono stati ovviamente nominati gli advisor, credo che nei prossimi giorni andranno nominati advisor anche per le minoranze, e si aprirà la complessa trattativa per capire qual è il prezzo giusto di Benetton. C'è anche l'ulteriore questione in questo, che per delistarla devono raggiungere il 95%, ma il 5% di azioni è detenuto dalla società stessa, quindi sarà la società a sua volta a dover dire se decide di aderire all'OPA promossa dal suo azionista forte. Insomma, ci sarà ancora un pochettino di valutazioni da fare. Per il momento il mercato scommette comunque che il prezzo vada rivisto. Allora, sì, i Benetton, tra l'altro lo chiarisco a chi ne ascolto, sono abbastanza seccati, furibondi, da quello che capiamo per le fughe di notizie. No, non sto scherzando, perché quando tu vuoi levare un titolo dalla borsa, ti conviene, se vuoi comprarlo tu, ed è tuo, diciamo, che ti conviene che il valore sia basso. Poniamo che Benetton fosse rimasto a 4 euro, adesso è 4,70 euro. Allora potevi offrire 4,2 euro. Ma se nei giorni precedenti all'operazione si sparge la voce, c'è una fuga di notizie, tutti vanno a comprare il titolo è salito del 23% tra lunedì e martedì, alla famiglia Benetton a Ponzano Vento occorre e tocca offrire un livello più alto per trovare qualcuno che gli venda il titolo, e quindi un esborso superiore, lo dico perché l'insider trading ha avvantaggiato qualcuno, ma non, a meno che non sia cambiato il mondo, la famiglia Benetton. Comunque, andiamo avanti, la Lazio batte il Milan e festeggia. La Lazio batte il Milan e festeggia, oggi più 12,76%, mm-hmm. Anche perché la Lazio, diciamo, si è portata al quarto posto nella classifica, a un solo passo dalla Champions League. La Champions League ovviamente vuol dire molti soldi per le società che riescono ad arrivarci, e quindi in qualche modo, oltre al fatto sportivo, può esserci anche un fatto economico questa volta. Ancora, Ansaldo CTS meno 2%, è nel meno 1,60, Finmeccanica ha perso lo 0,90. Oh, io continuo a non capire com'è che Finmeccanica, che nel consorzio per lo Eurofighter, il caccia europeo, che ha appena perso la più importante commessa del secolo forse, perlomeno dell'anno, 10 miliardi di euro del governo indiano per comprare 126 caccia, l'ha vinta i francesi Rafael, con il caccia Rafael, francesi della Dassault. Dicevo, Finmeccanica non ne ha risentito, e vabbè, i misteri della borsa. Mentre segnalo che Enel perde l'1,60%. Enel, siamo ancora in attesa di sapere quando arriverà l'ufficializzazione di questa emissione di obbligazioni, ancora non si vede, non se ne ha traccia. Meno 1,60 Enel, che ha ceduto l'ultima quota di Terna, se ho ben visto, meno 1,15% anche Terna. Sì, ha ceduto l'ultima quota che deteneva ancora ancora interna, ha realizzato una plusvalenza di 178 milioni, però si tratta di soldi che andranno a ridurre l'indebitamento di Enel, non andranno in qualche modo distribuiti fra gli azionisti, che anzi, mentre negli anni scorsi si erano abituati a vedere una cedola intermedia, quest'anno non la vedranno, e adesso gli operatori si aspettano addirittura che Enel possa anche rivedere più complessivamente la sua politica sui dividendi, tagliando le cedole. Staremo a vedere anche sulla base dell'emissione obbligazionaria chi è andato bene oltre i titoli citati: Mediobanca più 3%, e poi c'è una pattuglia di titoli che guadagna ma non così tanto: Exor più 1,70 come Fiat Industrial, Buzzi Unicem più 1,60, Ubibanca più 1,40, Pirelli più 1 come Diasorin. Lo 0,90 lo guadagna Ferragamo. Fronte opposto: Luxottica meno 1,20, Estima Electronics meno 1,30, Autogrill meno 1,40, Mediolanum meno 1,5, Telecom meno 1,6%. Grazie Guido Maurino, Radio Corriere, Sole 24 Ore. Traffico, e poi la tegola che si è abbattuta oggi su Alessandro Profumo. Alessandro Grande, l'ex numero uno di Unicredit, lui ed altri indagati per la vicenda Broncos, che non è un film western ma è un modo, secondo l'accusa, con cui Intesa San Paolo e Unicredit evitavano di pagare milioni e milioni di euro di tasse grazie alla consulenza molto prodiga di Barclays. Capital 349-238-6666 per i vostri sms. ...18-19 minuti... Allora, sì, caccia francese, si chiama Rafale, ha ragione chi scrive che vuol dire Raffica, se ho detto Rafale chiedo scusa, difficile chiamare un caccia da combattimento con il nome di un angelo, obiettivamente, anche se arriva dall'alto, ma confermo che è la prima grande commessa per la Dassault, che non era riuscita a piazzare questo caccia da nessuna parte, mentre lo Eurofighter con l'F-35 sono i due gioielli che, secondo gli analisti, dovevano spartirsi il mondo della difesa aerea, intesa come caccia, appunto, da intercettazione e non solo, e attacco. Però cambiamo radicalmente argomento e parliamo di questa vicenda che, ripeto, a parte il nome Brontos, non ha nulla di esotico, è tutta giocata, diciamo, tra una banca di origine inglese e due banche italiane. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, il procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, ha chiesto il rinvio a giudizio di Alessandro Profumo, ex numero uno di Unicredit, e altre 19 persone, tra cui alcuni manager ed ex manager di Unicredit e tre manager della banca londinese e britannica Barclays. La maxi frode fiscale da 245 milioni di euro realizzata attraverso l'operazione di finanza strutturata denominata Brontos. Il meccanismo è complicatissimo, ecco perché quando i meccanismi sono complicati chiedo sempre l'aiuto di Moria Longo del Sole 24 Ore. Buonasera Moria. Buonasera a tutti. Allora, parliamo di elusione fiscale, insomma, frode del fisco, dichiarazione fraudolenta dei redditi, e secondo l'accusa Profumo avrebbe approvato la realizzazione dell'operazione Brontos ponendo la propria sigla sulle richieste di approvazione dell'investimento tra il 1 marzo 2007, 9 aprile 2008 e 7 novembre del 2008. Come funzionava, se si riesce a capire, questo sistema? Allora, il sistema funziona in questo: funziona nella trasformazione, secondo l'accusa fraudolenta, di banali tassi di interesse in dividendi azionari. Perché si trasformano? Perché i tassi di interesse sono interamente imponibili, secondo il fisco italiano, mentre i dividendi sono deducibili fiscalmente al 95%. Quindi, se un'operazione finanziaria riesce a trasformare quelli che sarebbero tassi di interesse in dividendi azionari, si ha un fortissimo risparmio fiscale. Come facevano, sempre secondo l'accusa, Unicredit e Barclays a fare questa cosa? Facevano ad ottenere questo obiettivo. hanno imbastito un'operazione gigantesca, molto complessa, tra il 2007, 2008 e 2009, che partiva in Lussemburgo. In Lussemburgo è stata cerco di spiegare, poi vediamo poi la sintesi di tutto questo, perché l'operazione è complicatissima. In Lussemburgo viene costituita una società che si chiama LuxSub, la quale emette dei titoli atipici, che non sono né obbligazioni né azioni, si chiamano PPE o PPI in inglese, denominati in lire turche, quindi ma il massimo dell'esotico. Viene scelta la lira turca perché ai tempi le lire turche offrivano tassi di interesse molto più alti, intorno al 20% rispetto all'euro, quindi permettevano di aumentare gli interessi. Cosa succede? Mettendo questi titoli, questa società veicolo lussemburghese li vende alla filiale milanese di Barclays, quindi incassa dei soldi da Barclays Italia, e questi soldi li mette in un deposito presso Barclays a Londra. Quindi da un lato ha un deposito, dall'altro ha appunto venduto titoli. Quindi da una parte con una mano prende gli interessi da questo deposito e con l'altra mano restituisce gli interessi a Barclays Milano, quindi fa passare degli interessi da Londra a Milano. A questo punto entra in gioco Unicredito, che con la filiale milanese di Barclays fa un cosiddetto pronti contro termine proprio su questi titoli in lire turche, quindi prende questi titoli da consegnare a termine dopo un determinato periodo a un prezzo prefissato. In tutto questo, in questo gioco, con questo pronti contro termine, Unicredito incassa appunto i dividendi, e che sono appunto, ripeto, fiscalmente deducibili. Quindi secondo la procura, secondo appunto l'impianto accusatorio, Unicredito e Barclays imbastiscono questa complessissima operazione per far sì che Unicredit di fatto ottenga dei dividendi, quando in realtà l'operazione sarebbe semplicemente stato un banale deposito interbancario. Cioè Unicredit di fatto ha fatto un deposito, un conto corrente trasformato in investimento in titoli proprio per avere il beneficio fiscale. Questa ovviamente è l'accusa della procura. Secondo Unicredit, ovviamente, tra l'altro Unicredit, la cosa curiosa è che si è avvalso per fare questa operazione del parere dello studio fondato dall'ex ministro Tremonti, quindi ha questo parere molto forte dalla sua parte. Secondo Unicredito è un'ottimizzazione fiscale, secondo la procura è una frode. Negli ultimi due anni hanno venduto derivati, oltre ai subprime, swap, future, qualunque spazzatura. Sapevano che l'illusione dei mutui avrebbe fatto crollare il mercato. E quando il crollo si è avverato, si sono fatti comprare i titoli tossici dal governo senza perdere un dollaro. Questo è l'impero del mare. Io ero un dilettante. Io sono una mezza tacca rispetto a loro, ragazzo. Il sistema è insolvente. Nessuno sa cosa fare dopo. Eccetto ripetere la follia fino a che non scoppia la prossima bolla. E sarà quella vera, quella grossa. Come la storia dei tulipani, ricordi? Era il mitico Gordon Gekko sulla verità quando diceva che era stato un dilettante. Sono tutte ipotesi da dimostrare. Io, devo dire la verità, ci ho capito la metà. E spero che l'operazione è fatta complicata no, appunto. Spero che gli ascoltatori siano molto più intelligenti di me, non ho dubbi su questo, non ci vuole nemmeno tanto. Però quello che ho capito è che tutto questo giro, ossia trasformare un banalissimo deposito in dividendi e quindi giocare sulla diversa tassazione, correggimi se sbaglio, serviva a non pagare le tasse. Poi dei geni del male, come diceva Gordon Gekko, no? Su questo, perché certo che ci vuole una bella testa per architettare un'operazione del genere. Non a caso chi vive in Lussemburgo, anche gli italiani, sono pagati benissimo e accolgono con piacere i capitali nostri che riescono ad andare lì. Complimenti anche allo studio Tremonti, non al ministro, ma insomma ai suoi collaboratori, perché anche lì ci vuole una bella testa. Non a caso poi Tremonti con lo scudo fiscale sapeva di cosa parlava. Però cosa rischiano adesso Alessandro Profumo e le altre 19 persone rinviate a giudizio? Il capo di imputazione è dichiarazione fiscale fraudolenta. C'è qualunque cosa lì dentro. Ci sono una serie di reati, anche appunto ostacoli vari. La pena massima sinceramente non la ricordo, ricordo però che adesso è semplicemente la richiesta di rinvio a giudizio, per cui certo. Il GIP si c'è anche ipotesi di ostacolo alle indagini. L'accusa per tutti è ostacolo alle indagini e dichiarazione fraudolenta dei redditi. Poi da lì si aprono altre possibilità. Devo dire che Alessandro Profumo oggi si è detto felice del fatto che le vicende relative al caso Brontos possono essere serenamente oggetto di giudizio, e certo che dimostrerà l'insussistenza del fatto e qualsivoglia mia pretesa personale e responsabilità. Questa è la nota di Alessandro Profumo che andava letta. Grazie a Mario Longo del Sole 24 Ore. Adesso non vi faccio riascoltare la frase di Mario Monti. Ha ragione Monti a dire che il mondo non può essere pensato come un lavoro fisso. La battuta sul fatto che il lavoro fisso è monotono quando abbiamo la disoccupazione a record degli ultimi dal 2004, secondo me è una battuta fuori luogo. È vera la frase, le battute forse vanno evitate in questi casi. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, ci occuperemo degli stipendi dei manager, anche quelli italiani, manager di grandi imprese, Enel, Finmeccanica, insomma quanto costano i manager, visto che la cinghia la stiamo stringendo quasi tutti. A domani. Radio 24, la passione si sente.